Il sito delle storie presenta Verso il tempo di Riccardo Mini. Maggio. Sono appena tornato dal funerale di Sara, anche se in realtà non ne tornerò più. C'era poca gente alla funzione, pochi parenti ovviamente, perché noi come famiglia di parenti ne avevamo pochi. Io non sono tipo da diari, non ne ho mai scritti e non so come si fa, ma tornando a casa, in questa casa vuota, ho trovato questo quaderno tra le sue cose e verso la fine c'erano queste pagine vuote. Era Sara quella dei diari. Se mi vedesse adesso, chissà come riderebbe, chino sulla penna come un contadino sull'aratro. Era lei quella che scriveva. Scriveva e leggeva anche. Quasi la sento ridere da qualche parte qui in questa casa vuota. Qui non posso restare. Tutto mi ricorda lei. Devo andarmene, ma non so dove. Non mi sento la forza per cambiare stanza, figuriamoci casa. Non mi sento la forza di andare al lavoro. Finirò sotto un ponte. Quelli come me alla fine finiscono sotto un ponte, ma chi se ne frega. È buio. Fuori continua a piovere. Andrò a far finta di dormire. E te, caro diario, addio. L'esperimento è iniziato male e mi sa che finisce qui. Non sono tipo da diari io. Pensavo alleviasse il dolore, ma non allevia niente. Maggio. Oggi è uguale a ieri. Il telefono ha squillato un po' di volte, ma non ho risposto. È un po' di giorni che non rispondo. Ieri mi ero detto che non l'avrei più ripreso in mano, questo diario. E invece eccomi qua. È che non ho nient'altro da fare. E poi non ho bisogno di giustificarmi. Tra l'altro, mi sono accorto che ho sbagliato data. Ho messo quella del giorno prima, anziché del giorno dopo. Ieri era il 26, quindi oggi è il 27, non il 25. Ho guardato male la data sulla radiosveglia. Anzi, no, ho visto giusto. Segna proprio il 25. Probabilmente sta partendo, si sa del resto. La Cina le radiosveglie te le fa anche, ma non puoi aspettarti che funzionino. Non per 1,90 euro, ma in fondo chi se ne frega. Maggio, oppure no. Non ha nessun senso che io mi ostini a scrivere questo diario, ma mi succedono delle cose strane. Stamattina dormivo e mi ha svegliato una telefonata. Era all'ufficio. Anzi no, era il mio capo in persona. Non aveva niente del tono compito e solidale dei giorni scorsi quando gli ho detto di mia moglie. Era furioso, pareva che neppure se ne ricordasse. Mi ha insultato e mi ha chiesto dove fossi, perché non ero già in ufficio, che c'era quell'affare da concludere, quello importante. Mi ha detto anche il nome, ma non me lo ricordo. Neanche 2 giorni sono passati dal funerale e già pretendono che torni al lavoro. Mi ci vedo al telefono con un cliente isterico che sollecita la copia autenticata del contratto, capace che gli dico quello che veramente penso di lui. Il mio capo non sarebbe contento. Comunque al capo l'ho detto quello che veramente penso di lui. E comunque non è più il mio capo. Non gli ho neanche lasciato la soddisfazione di dirmi che mi licenziava, perché ho riattaccato prima e sono tornato a letto, dove ho seriamente in progetto di passare il resto della vita. Qualche ora dopo. Di nuovo il telefono. Non avrei dovuto rispondere. Eppure, non so, dallo squillo sembrava importante. Ma è stato uno scherzo di cattivo gusto. O forse un incubo. Forse non è successo davvero, ma l'ho sognato. Del resto, quando ho iniziato a squillare, dormivo come un morto. La voce era quella che conoscevo, l'ospedale. L'infermiera che dice il nome di Sara e poi chiede se la conosco. Ed io che, forse perché non ero ancora del tutto sveglio, o forse perché non lo ero del tutto e stavo appunto sognando, io ripeto parola per parola quello che ho detto la prima volta. Sì, la conosco, perché è successo qualcosa? Ed è una domanda retorica perché so già la risposta e la so perché l'ho già sentita, identica, 2 giorni fa, pronunciata allo stesso modo, dalla stessa voce. C'è stato un incidente, lei è all'ospedale e via di seguito, secondo lo stesso copione. Solo che a questo punto l'ho rotto io il copione, perché ho capito il gioco, lo scherzo cattivo, e prima di darle la soddisfazione di dirmi che Sara era morta, ho riattaccato. Qualche ora dopo. Ho paura. Sto impazzendo. Scrivo perché sto impazzendo. E scrivere da un lato mi rassicura perché, non so, da qualche parte ho letto che i pazzi non scrivono e comunque se scrivono non scrivono che sono pazzi. Di solito scrivono poesie e questa non è una poesia. Non so come chiamarla. So solo che ho acceso la televisione visto che dopo l'ultima telefonata non riuscivo ad addormentarmi. C'era il telegiornale. È comparsa la data ed era quella di 4 giorni fa. Anche le notizie erano quelle di 4 giorni fa, non il 28, ma il 24 maggio, il giorno in cui è morta mia moglie, il giorno in cui ho ricevuto la telefonata dell'ospedale, quella vera, il giorno che mi ricordo come se fosse oggi. Ed è oggi, solo che è passato, me lo ricordo nel passato e l'ho già vissuto. Non so cosa stia succedendo, ma ho paura. Ieri dalla paura mi sono ubriacato con del whisky scadente che era avanzato in casa. Erano anni che non ne bevevo. Quando sono andato a letto non mi reggevo i piedi. Eppure stamattina non stavo male. Non avevo né mal di testa né altri postumi. Anzi, mi sentivo riposato. Sono andato in edicola a comprare il giornale. La data sul giornale era quella del 23 maggio. Conoscevo già le notizie, ma l'ho comprato lo stesso. L'edicolante mi ha chiesto come stavo e perché non fossi al lavoro. Poi mi ha chiesto come stava Sara e mi ha detto di salutargliela. Mi ricordo che c'era anche lui al funerale. Era venuto a farmi le condoglianze e a stringermi la mano di persona. Gli ho risposto che senz'altro gliel'avrei salutata e mi sono voltato per uscire. In quel momento è entrato un signore di mezza età e si è messo a parlare di calcio con l'edicolante. Stasera si gioca una partita importante. Inter contro non so che squadra finlandese. Il signore interista ha scommesso che vince l'Inter, mentre l'edicolante tifa Milan e quindi è sicuro che vincerà la squadra finlandese. Hanno chiesto il mio parere e io ho detto che l'Inter va a perdere 3-0. Mi hanno chiesto se sono milanista. Gli ho risposto che no, non tengo il Milan, però ho una nonna finlandese. Sono rientrato a casa proprio mentre squillava il telefono. Questa volta non volevo rispondere, ma quando è scattata la segreteria telefonica e ho sentito la voce del mio capo, ho sollevato il ricevitore. Di nuovo era arrabbiato perché non mi ero presentato al lavoro senza preavviso, ma non ha fatto cenno alla telefonata di ieri e soprattutto non parlava come chi mi aveva già licenziato. Comunque mi ha licenziato di nuovo. Questa volta, anziché riattaccare, sono rimasto ad ascoltarlo e fondamentalmente devo dire che aveva ragione. Le mie assenze, il mio scarso rendimento dell'ultimo periodo sono motivi sufficienti per interrompere il rapporto. L'ho salutato garbatamente, anche se lui continuava ad insultarmi. Poi mi sono messo a leggere il giornale davanti ad una tazza di caffè. A un tratto la porta di casa si è aperta ed è entrata lei. Sara, viva e intatta. E bella come 3 giorni prima dell'incidente che le avrebbe sfigurato il volto e il corpo. Aveva ancora in mano la valigia, perché è vero, mi ero dimenticato che era andata a trovare sua sorella, che ha appena avuto un bambino e abita a Modena. Mi ha guardato sorpresa, e io non so come la guardavo. Mi sarebbe piaciuto vedere la mia faccia in quel momento. «Non dovevi essere al lavoro?» mi ha chiesto. Era un po' contrariata, persino sospettosa. «Che bello rivederti, amore!» ho risposto. Non cambiare discorso. Dovevi essere al lavoro. Altrimenti, se eri a casa, potevi venirmi a prendere alla stazione. Lo sai il traffico che c'è in giro a quest'ora? Era evidente che non sapeva che stava per morire. Altrimenti sarebbe stata più felice di vedermi. Sono andato da lei e l'ho abbracciata, come non faccio spesso. Sembrava ancora più sorpresa di prima. Cos'è? Ti hanno licenziato? Mi ha chiesto. Sì, ho risposto e l'ho baciata sulla bocca. visto che ho ragione quando dico che sono impazzito. Qualche ora dopo. È lei, è proprio lei. Sono sicuro che non è un sogno. Da quando è arrivata l'ho toccata, baciata, annusata. E i sogni non hanno quella consistenza. E non è neppure un fantasma, perché siamo usciti a prendere il pane e la gente la salutava. Il panettiere ha preso i soldi da lei e le ha dato il resto. Credo di aver capito quello che è successo. Dal giorno del funerale, il 26 maggio, il tempo non scorre più in avanti, ma all'indietro. O almeno parzialmente all'indietro, perché dalla mattina alla sera il tempo scorre in avanti. Adesso per esempio sono le 5 del pomeriggio, mentre prima erano le 4. Solo che ogni mattina, quando mi sveglio, è il giorno prima del giorno che lo ha preceduto. Sono passati 3 giorni dal funerale, ma anziché essere il 29, è il 23 maggio. E domani sarà probabilmente il 22. Ecco perché Sara è ancora viva. Perché non è ancora morta. Comunque, se è vero, è così solo per me. Nessuno degli altri sembra accorgersi del fenomeno. Tutti si comportano come se niente fosse. I loro ricordi sono quelli di ieri, non quelli di domani. L'uomo del domani sono io. So tutto quello che sta per succedere, almeno fino al 26 maggio. Dopodiché, per me il tempo finisce. La cosa più importante è che Sara sia qui con me. Sta bene, e ad ogni giorno che passa alla fine si allontana anziché avvicinarsi. Questa è la cosa più importante. Qualche ora dopo. È notte. Sara dorme. Naturalmente non le ho detto niente, altrimenti mi prenderebbe per pazzo. Ho pensato e ripensato alle potenzialità di quello che mi sta accadendo, alle possibilità di un suo sfruttamento pratico, e francamente non ne ho vista nessuna. Potrei arricchirmi con le scommesse, al totocalcio, oppure investendo in azioni. Sicuramente non sbaglierei un colpo, ma sarebbe inutile, perché il giorno dopo non sarei lì a riscuotere le vincite o gli interessi o i dividendi. Ogni volta mi risveglierei il giorno prima di aver concluso l'affare del secolo, quindi senza niente in mano. Pare che io sia destinato a rivivere la vita nel medesimo modo in cui l'ho già vissuta, con in più forse una consapevolezza di quello che mi sta per accadere, che prima non avevo. Sara, che dorme tranquilla nel nostro letto, ad esempio, è un'immagine che mi commuove. Potrei stare le ore a guardarla, perché so che può finire. Anzi, so che finirà perché l'ho vista finire. Quindi dico grazie e non chiedo altro. Fine della prima parte.